Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Informazioni rapide, sito radio24.it, visitatelo, così come vi invito a visitare il mio blog Guardie o Ladri, lo trovate con un motore di ricerca o anche attraverso il sito di Radio 24 e del Sole 24 Ore. Seconda informazione riguarda la nostra mail unabusoalgiorno@radio24.it. Allora, da ieri stiamo parlando di un tema molto molto interessante, perché riguarda l'economia, riguarda la politica locale, riguarda la vita dei cittadini, riguarda la politica sovranazionale, la comunità europea. Vale a dire, stiamo parlando di una parte molto specifica e particolare del rapporto Mare Nostrum 2010 di Legambiente, che riguarda la vicenda delle Spadare. Allora, questi Eredi Killer che ogni anno intrappolano migliaia di tonni, migliaia di tartarughe, delfini, balenottere, ogni specie marina. Spadare che nella loro, come dire, visione più tragica sarebbero state vietate, anzi sono state vietate, abbiamo appurato ieri dalla viva voce del sindaco di Santa Flavia in provincia di Palermo, Antonio Napoli, dal 2002. Allora, che cosa accade? Accade che il sindaco ci dice questo: benissimo, le spadare sono vietate nel nostro bacino mediterraneo, ma poi se si va in Tunisia, se si va in Marocco, questi se ne fregano altamente delle nostre regole, che ci dicono che non è possibile usare delle reti, come dire, enormi, lunghissime, lunghe 5, 6, 7, 8, 10 chilometri, adesso non ha importanza il chilometraggio, ma comunque ci fanno una concorrenza sleale, quindi la nostra pesca, la nostra tradizione, la nostra cultura, il nostro modo di operare muore e si trova, come dire, senza risorse per fronteggiare in maniera onesta e leale questa concorrenza sleale che invece arriva appunto dall'altra parte del bacino mediterraneo. Però Legambiente ci dice: sì, sarà tutto vero, però intanto io quest'anno mi sono reso conto che sono state sequestrate nell'ultimo anno 133.000 metri di reti spadare, 111.000 di ferrettare, queste spadare piccole, lecite, ma spesso che si prestano ad equivoci, e le abbiamo viste sequestrate dove? In Calabria, in Campania, in Sicilia e in Puglia. E poi Legambiente ancora dice: attenzione, perché dietro questo traffico illegale o questo traffico così condotto ci sono le grandi organizzazioni criminali, e il valore economico di questo, di queste pesche di frodo, di queste pesche che devastano l'ambiente, valgono tanto quanto vale il mercato legale. E il sindaco di Santa Flavia dice: attenzione, da noi ci sono soltanto piccole famiglie, piccole imbarcazioni, insomma gente che vive da decenni, da centinaia d'anni di questa tradizione e che ora si trova in difficoltà. Giustamente il sindaco di Santa Flavia ci ha detto, insomma, le politiche comunitarie sono state da questo punto di vista un mezzo disastro. Allora, questa è una parte della verità che contiene molti aspetti quantomeno verosimili. Io sono convinto delle cose che dice il sindaco e molte parti di verità che lui ci ha raccontato, ma dobbiamo vedere anche l'altra parte della medaglia, vale a dire quella della denuncia, che qualche fondamento avrà se lo scrivono e lo mettono nero su bianco. Ed è per questo che ieri abbiamo chiamato a interloquire con noi Sebastiano Venneri, che è il vicepresidente di Legambiente Nazionale, al quale do nuovamente il buongiorno. Buongiorno. Venneri, lei ha ascoltato ciò che ieri ha detto il sindaco di Santa Flavia. In cosa non si riconosce? Ma diciamo intanto che mi riconosco nel fatto che il problema delle spadare sia un problema grave, forse non basterebbero due puntate ad affrontarlo e a sviscerarlo completamente, che è stato affrontato negli anni passati sull'onda delle emergenze. Era un'emergenza il fatto che l'Italia avesse negli anni 90 quasi 800 spadare, era una flotta la più ricca, la più piena del Mediterraneo. Era un'emergenza creata colpevolmente, direi, anche da i governi del nostro paese, ed è stata affrontata con la scimitarra nel 2002 dicendo: cari signori, da questo momento in poi non si pesca più. Sono stati lautamente compensati, nel senso che l'Unione Europea ha speso 200 milioni di euro per avere in cambio le reti da questi signori che pescavano con le reti illegali. Il problema è che dal 2002 a oggi, sì è vero, ci stanno gli altri paesi, il Nord Africa eccetera, però noi siamo dell'Unione Europea, facciamo parte dell'Unione Europea, ci saranno anche altri paesi in cui sarà lecita la tortura probabilmente, ma non per questo noi dobbiamo adeguarci a questo. Lei ha perfettamente ragione, però il sindaco di Santa Flavia, e perché Santa Flavia? Perché segnatamente insieme a Bagnara Calabra è una delle due località che voi avete individuato come molto sensibili al tema. Il sindaco di Santa Flavia ci ha detto: ma noi non usiamo più questi metodi, i nostri pescatori si comportano in maniera lecita. Poi ci sarà anche la pecora nera, in questo caso potremmo dire il tonno nero, però si comportano bene. Ecco, lei cosa replica? Che di pecore nere in questi anni ce ne sono state tante, troppe direi, tanto che siamo incorsi nelle infrazioni e abbiamo in corso un'infrazione all'Unione Europea proprio per le tante pecore nere che in questi anni hanno continuato a pescare illecitamente con le spadare. Complice una normativa che secondo dal nostro punto di vista ha permesso o comunque ha chiuso un occhio davanti a certi illeciti o all'uso borderline delle ferrettare, per cui le ferrettare che prima erano sostanzialmente autorizzate nelle 3 miglia dove sono più facili i controlli sono state spostate al largo alle 10 miglia dove diventano più difficili i controlli e più facile per chi vuole pescare illecitamente utilizzare degli attrezzi che non sono più le ferrettare ma sono le reti. Insomma, Venneri, lei dice sarà pure vero quello che dice il sindaco, però da qualche parte questi qui sfuggono, scappano, quindi bisognerebbe che ci fosse e che ci sia una maggiore attenzione, senza criminalizzare nessuno, ma chi deve controllare, Venneri, che effettivamente anche persone come lei ha ricordato sacrosantemente, lautamente pagate per restituire le reti, se ne stiano a casa o si trovino in un'altra occupazione e non, come dire, incorrono in questi tipi di violazioni alla normativa comunitaria? Chi è che deve controllare? Il sindaco, la capitaneria di porto, la regione, chi deve controllare? Quello dei controlli è un altro problema, nel senso che solo recentemente per esempio è stato possibile sanzionare il possesso dell'attrezzo illegale, solo recentemente il fatto di avere una spadara, sicuramente un attrezzo illegale, illecito eccetera, poteva essere consentito e non sanzionabile a meno che io non venissi colto in flagrante con le mani nel sacco, anzi con la rete nell'acqua, con le reti in mano. Esatto. Se invece c'avevo questa rete illegale a bordo non mi potevano fare niente. Quindi questo deve... Un'altra cosa mi preme aggiungere. Prego. Sì, è vero che ci sono tante persone oneste, per carità, la stragrande maggioranza eccetera, però dall'analisi dei dati dei pescherecci sanzionati in questi anni che cosa si ricava? Si ricava che quasi 13 milioni di euro sono stati dati a persone e a pescherecci che hanno pescato illecitamente. Ah, che bellezza. Abbiamo dato dei quattrini a persone che hanno pescato illecitamente. Fantastico, ecco. Però se poi si va ad analizzare chi c'è dietro pescherecci. Bene, Venneri, un secondo che la interrompo soltanto per dare il ritmo a quello che lei sta dicendo, perché l'altra cosa che dicevamo ieri con Napoli era la vostra denuncia, diciamo così, delle grandi criminalità organizzate dietro questi traffici, 'Ndrangheta in Calabria, Cosa Nostra in Sicilia, eccetera, eccetera, eccetera. E il sindaco Napoli ci ha detto: ma per quanto mi risulta qui mafia non ce n'è. Ora persino qui a Milano si dice che mafia non ce n'è, sappiamo che la mafia invece a Milano detta legge. Quindi va bene la difesa d'ufficio, ma lei come la vede, Venneri? No, io se posso dire, non so se c'è la mafia, l'Ndrangheta o di dietro non ci sono le orsoline carmelitani scalzi, però, no, voglio dire, se però, lo scrivete però, voi nel vostro rapporto, criminalità organizzata, la mafia non è un'associazione per beneficenza pubblica, eh. Certo, ma un dato è certo, è che ci sono poche persone, cioè nel senso che i tanti pescherecci che sono stati sanzionati in questi anni, molto spesso fanno capo a poche persone, certo, non è vero che c'è ma certamente, come dire, le piccole famiglie che stanno dietro ciascuna barca, ma ci sono molto spesso 4, 5, 6 pescherecci, che vuol dire tanto, che fanno capo a una sola persona, certo, che certo, si può certo permettere addirittura di pagare le multe 5, 6, 7 volte per ciascuna barca. Una barca è stata fermata 5, 6, 7 volte a distanza di pochi mesi, paga la multa e continua a pescare. E ricomincia, quindi, certamente. Per dire quant'è redditizia. Assolutamente. Pesca. Allora, Venneri, vicepresidente dell'Ambiente Nazionale, lo affermo perché purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto, però sono stati veramente molto interessanti questi due giorni dedicati al tema della pesca di frodo, voglio dire con le, di frodo, la pesca criminale con le spadare, che nonostante sia vietata dal 2002 ancora si continua a fare in Italia. Capisco che il tema non può essere esaurito in due puntate, che però sono già tante per crearsi un'opinione, farsi un'idea e conoscere un tema. Quindi io ringrazio i nostri ospiti, grazie in regia Filippo Reggi e in studio ad Antonella Migliaccio, e Roberto Galullo vi auguro una buona giornata.